dall'ufficio statistica del Ministero della Giustizia sulla mediazione, qual è il settore che più in assoluto ha visto il ricorso alla mediazione civile? In termini quantitativi, i diritti reali sicuramente, poi le locazioni, i contratti bancari, per esempio, poi esperienze che vengono riportate fanno vedere come le stesse banche gradiscono molto la mediazione, in quanto è un rapporto non contenzioso con i loro clienti e quindi diventa un modo comunque per mantenere un rapporto con la propria clientela, e quindi poi i contratti assicurativi, le divisioni, le successioni ereditarie. Insieme all'obbligatorietà della mediazione per una sfilza di questioni è comparsa in quest'anno anche una squadra sempre più nutrita di professionisti abilitati a cercare di dirimere le controversie, e visto che sono già 40.000 fino ad ora i paceri di professione, un esercito formato dai 729 enti di mediazione o i 259 di formazione censiti dal Ministero, c'è chi scommette che questa sarà sempre più una delle professioni del futuro, soprattutto nelle regioni fino ad ora a più alta litigiosità. A guardare la fotografia di un anno di mediazioni obbligatorie scattata dall'ufficio statistico di Via Arenula, si scopre così che Lombardia e Campania, dove le liti più spesso fino ad ora sono sfociate in carte bollate davanti al giudice, sono anche in testa alla frequenza del ricorso al conciliatore, come registrano le statistiche del Ministero. Il direttore dell'ufficio, Fabio Bartolomei. Proprio se devo citare delle regioni dove ci sono state più mediazioni, ci sono la Campania, la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Sicilia. Cioè, quindi una regione più popolosa, una regione quindi che è anche più litigiosa, quindi in proporzione fa anche più ricorso alla mediazione. Sì, vista l'obbligatorietà mi sembra di vedere una consistenza. E da un punto di vista economico, cioè esiste una stima anche di quanto l'introduzione della mediazione e quindi dell'obbligatorietà della mediazione civile abbia rappresentato anche in termini di risparmi di tempo per la giustizia e di costi per i contraenti, per le parti? Sicuramente il dato dei tempi è macroscopico. Oggi una causa di contenzioso civile in un tribunale medio, per cui è un dato, veramente un indice molto sintetico, poi le realtà cambiano fra le città, un dato medio di riferimento nazionale è intorno ai 1.000 giorni, quindi più di 3 anni per una causa civile in primo grado. Ecco, le mediazioni si risolvono per legge entro i 4 mesi, ma il dato che abbiamo rilevato noi è addirittura di 61 giorni. Per cui, come vede, cioè sui tempi siamo proprio su ordini di grandezza diverso, il risparmio della mediazione è evidente. E di conseguenza quindi anche quello economico, esiste una stima oppure no? In termini di valore della causa abbiamo visto che la mediazione si realizza anche su cause di un certo importo, con un valore medio che è oscillato in questi mesi ma ha raggiunto gli 80-90 mila euro di valore di causa gestita, quindi diciamo non una mediazione per cause bagatellari ma una mediazione anche su cause importanti. In termini di risparmio economico per il sistema non c'è un risparmio economico del sistema, ma c'è un effetto filtro della giustizia ordinaria, quindi tutte le mediazioni che sono andate a buon fine non sono state scritte nei tribunali. Se non sono state scritte nei tribunali significa che i tribunali si sono potuti concentrare su altre cause. Ad oggi l'effetto su questi flussi non è significativo, però se dovesse crescere la componente volontaria e adesso con l'introduzione delle nuove materie dovesse aumentare il numero di cause che vanno in mediazione, questo effetto diventerà più concreto e quindi anche misurabile in maniera significativa. Voi avete fatto già una stima della crescita, diciamo, del ricorso alla mediazione con l'introduzione delle nuove materie? Sì, anche se queste stime sono sempre difficili da fare, perché per quanto le materie possano essere oggetto, diciamo, di una mediazione obbligatoria, il comportamento in questi mesi non è stato così lineare, cioè non tutti i flussi che prima andavano in tribunale si sono trasferiti alla mediazione per perenne ragioni che non sto qui ad elencare. Il risarcimento danni da circolazione, che adesso è una materia che andrà in mediazione obbligatoria, se io vado a vedere quelli che sono i flussi nei tribunali ordinari, che sono di circa 400.000 l'anno, non è detto che diventeranno 400.000 mediazioni, però diciamo che la massa su cui potenzialmente la mediazione potrebbe agire è quella. Mi si accusa del furto di uno dei 7 nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma se Roberto Benigni nel film Il Mostro è accusato di aver rubato uno dei 7 nani dai giardinetti del palazzo, sono soprattutto rumore, panni stesi e spazi in comune l'oggetto del contendere più frequente tra vicini di casa. Ma d'ora in poi anche molte di queste liti, come quelle per le RC auto, si vanno ad aggiungere alla lista delle materie che sono già a conciliazione obbligatoria. E la speranza è che forse l'abitudine a conciliare faccia, chissà, anche ridurre quella a litigare. Era l'approfondimento di Raffaella Calanda sulla giustizia civile, Italia in controluce. Tutte le puntate sono scaricabili in podcast su radio24.it e poi siamo su Facebook, Twitter e su moltissime altre diavolerie informatiche. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.